Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo chiaramente della Banca d'Italia, la relazione annuale del governatore della Banca d'Italia Visco, le cosiddette considerazioni finali. Potrebbero anche essere le ultime sue considerazioni, essendo giunto al termine dei 6 anni di incarico. Ha detto Visco, serve uno sforzo eccezionale per superare la crisi. Chiede appunto una politica monetaria ancora accomodante, visto l'andamento dei prezzi, quindi dell'inflazione, riferimento alla Banca Centrale Europea. E le sofferenze bancarie rendono vulnerabile il nostro paese, oltre che il debito pubblico, però Visco dice è possibile riportare il debito sotto il 100% in 10 anni. E aggiunge, quanto alle sofferenze bancarie, ma ne parleremo in maniera estesa, che se venissero svendute, cioè cedute ai fondi che le vogliono comprare per un valore intorno al 10-15, massimo 20% del valore nominale della sofferenza, dice se venissero svendute il danno ulteriore sulle banche sarebbe di 10 miliardi di euro. Ancora per quello che riguarda i temi parleremo anche dell'ILVA, già se ne è occupato fino a poco fa Oscar Giannino. Sui temi degli esuberi cerchiamo di capire anche da cosa nasca questa notizia, che è arrivata, per almeno stando alle dichiarazioni dei sindacati, come una sorpresa. Sono secondo il piano ArcelorMittal Marcegaglia, Intesa San Paolo, 4.800 esuberi su 14.200 dipendenti, di cui 4.100 sono già in cassa integrazione. Da quello che si è capito, l'altro piano era anche peggio, nel senso che 6.400 sul fronte degli esuberi, chiaramente il dato era ancora più forte, 6.400 nel piano Jindal Cassa Depositi e Prestiti del vecchio Arvedi, che era l'altra cordata, prevedeva degli esuberi anche superiori. Di questo parleremo, dicevo, più avanti. E poi i dati di oggi sulla disoccupazione, che sono l'unica notizia positiva in una giornata, insomma, come spesso avviene con notizie in chiaro scuro e alcune solo in scuro. Dicevo, perché positiva? Perché il tasso di disoccupazione è sceso ad aprile all'11,1%. È un calo anche significativo sull'anno prima. Prima di iniziare con le polemiche, so benissimo che la disoccupazione è ancora alta, siamo ancora sopra, ampiamente sopra il 10%, lontani dai livelli pre-crisi. Detto questo, rispetto a un anno fa è calata dallo 0,6%, la disoccupazione era all'11,7% un anno fa e all'11,1% adesso, ed è il tasso più basso dal settembre del 2012. Anche gli occupati invece crescono, 94.000 in più, e siamo ai massimi da 8 anni a questa parte. Lo dicono. Guarda che in questi casi non c'è da essere, da tifare per una cosa o per l'altra. C'è solo da tifare perché questi dati si consolidino, come si dice in gergo, e quindi vengono confermati. Ma tutti dovremmo essere contenti, qualunque sia lo schieramento politico, come la si pensi, se l'occupazione arriva a livello più alto, quasi 23 milioni di persone, 22 milioni 988 mila, da 8 anni a questa parte, al 57,9%. Resta un brutto dato sulla disoccupazione giovanile, che è al 34%, è stabile rispetto a marzo, ma è in calo di 3 punti rispetto ad aprile del 2016. Anche di questo parleremo nella seconda ora del programma. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Ricordo che il programma è trasmesso anche in diretta video su Facebook. Andiamo con le notizie in breve. Partiamo Partiamo come sempre dalla borsa, oggi invariata Milano, invariata Parigi, più 0,50 Francoforte, Londra più 0,30, Dow Jones meno 0,20, euro in rafforzamento 1,12,50 sul dollaro, bene Atlantia più 2%, di nuovo Italgas più 1,80, A2A più 1,60, Snam più 1,30 come ricordati e Fiat Chrysler, Generali più 1 come Enel e Banca Mediolanum, ma anche Intesa San Paolo e Campari. Perde invece Mediaset il 3,30%, UbiBank meno 2,90, Bipper meno 2,40, Tenaris meno 2,30, Banco BPM meno 2,20, Saipem meno 2% come Mediobanca, l'1,80 lo cede UX Net-a-Porter e poi c'è il caso di Banca Cassa del Risparmio di Genova, perde quasi il 6%, il peggior titolo ex Privia perde il 7,30, ma mentre continua a correre tantissimo Gambero Rosso al 32% anche oggi. Dicevo, il caso di Cassa del Risparmio di Genova, vi arriveremo, c'è stata c'è maretta, diciamo così, dentro la governance della Cassa del Risparmio di Genova, perché è arrivata si va verso la sfiducia del socio di maggioranza Vittorio Malacazza verso l'amministratore delegato Guido Bastianini, e a questo punto si ipotizza fortemente la dimissione dell'amministratore delegato e anche del commissario. Il fondo Apollo tra l'altro ha chiesto a Cassa del Risparmio di Genova danni per oltre 200 milioni di euro. Il CDA della banca ha detto di essere stato informato circa le pretese risarcitorie del fondo americano e degli ex vertici. Per quello che riguarda l'economia internazionale, continua il botta e risposta Trump, Unione Europea e anche Cina oggi. Trump ha detto che annuncerà nei prossimi giorni la decisione sul clima e quindi sostanzialmente la revoca dell'accordo di Parigi. Facciamo di nuovo grande l'America. Boh. Nel vertice invece di venerdì Unione Europea e Cina annunceranno che continueranno a rispettare l'accordo di Parigi sul clima e sulle emissioni nelle conclusioni saranno annunciati i dettagli delle misure concrete di attuazione dell'accordo, quindi Cina e Europa vanno avanti per i fatti loro sull'accordo di Parigi. Devo dire che gli Stati Uniti hanno un grosso ruolo nelle emissioni di CO2 e quindi non si può dire vabbè si va avanti da soli e basta, perché se manca l'appello la quantità di emissioni statunitensi, te ne manca una grossa fetta, però almeno se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, almeno vanno avanti Unione Europea e Cina. Ancora per quello che riguarda le notizie di carattere europeo, oggi non c'è moltissimo. La Commissione Europea ha proposto per il 2019 di ridurre entro il 2019 i rischi bancari, ma anche di avviare una forma di obbligazioni dell'area euro, una specie di eurobond, però senza mettere in comune i rischi. Poi invece la strategia 2020-2025 si propone di far nascere un Ministero del Tesoro Europeo e un Fondo Monetario Europeo e di pensare a cosiddetti safe assets europei simili agli eurobond. È una proposta della Commissione, magari fosse già realtà, aggiungo io, anche perché poco dopo è arrivato subito Schäuble, il falco tedesco, ministro delle finanze, che ha detto non cambia il nostro rifiuto agli eurobond, siamo al contrario anche a condividere, a qualunque condivisione del debito. Prezzi, l'andamento dei prezzi in Italia rallenta, l'inflazione a maggio all'1,4% contro l'1,9% di maggio, carrello della spesa segna un più 1,6% sull'anno prima, sono calati i prezzi dei trasporti, meno 1,4% comunicazioni, aumentano invece i prodotti alimentari più 0,1%, i servizi ricettivi di ristorazione più 0,7%. E comunque insomma l'inflazione del carro della spesa si sta avvicinando, è all'1,6, ma si sta avvicinando al 2%, lo dico perché come spesso ripetiamo, Mario Draghi finché non vedrà un'inflazione sana al 2% non solo importata continuerà e avrà anche appoggio politico nel continuare a mantenere i tassi a zero e a comprare e iniettare liquidità nel sistema comprando titoli di Stato. Quando l'inflazione dei vari paesi dovesse avvicinarsi al 2% e non dovuta a un prezzo del petrolio ma ai consumi interni, Mario Draghi non avrà più l'appoggio, non è tanto politico, ma di ragionamento economico per continuare a mantenere i tassi così bassi, e dovrà rialzarli come chiede, come sta chiedendo da tempo la Germania. Andiamo all'Italia, restiamo in Italia, scusatemi, per quello che riguarda, vedo molti messaggi sull'IVA, ce ne occuperemo più avanti, i sindacati hanno confermato domani uno sciopero di 4 ore. Per quello che riguarda invece il ponte 2 giugno, Federalberghi oggi fa notare che saranno 8 milioni di italiani in viaggio, è un segnale positivo in vista dell'estate, sottolineano il 93% resterà in Italia. Mentre oggi c'è avuta notizia che Norwegian Airways collegherà con voli low cost Roma a Newark e Los Angeles a partire dal 9 novembre. Lo ha annunciato il numero uno della compagnia low cost, e questo sarà un altro colpo all'Italia su una tariffa molto molto redditizia come la Roma-New York. È vero che non lo scalo non è alla Guardia, ma non è JFK, ma è a Newark, però è nella Guardia. Però attenzione, hanno già venduto 115.000 biglietti e 4 collegamenti a settimana verso appunto Newark con tariffe da 180 euro a tratta, quella più bassa, cioè non ci vai neanche a Roma a tratta, per cui dovete solo andata, come capisco io, però e 2 verso Los Angeles da novembre a febbraio, mentre poi con un prossimo aeromobile vi saranno 6 voli verso New York e 3 per Los Angeles, sono 2 Boeing 787 Dreamliner. Insomma, attenzione, perché questa è concorrenza pura e vedremo come reagirà l'Italia. Su questo comunque si concentrano i 100 secondi, su questo, ma anche soprattutto sullo sciopero dei taxi, non in Italia, ma in Spagna. Il tema però è sempre Uber e Cabify, che è un servizio simile che c'è in Spagna. Migliaia di tassisti spagnoli sono scesi in piazza a Madrid per protestare contro quello che definiscono la concorrenza sleale delle nuove piattaforme di servizio quasi come un taxi, ossia Uber e Cabify. Tra l'altro, forti disagi per i viaggiatori in arrivo negli aeroporti spagnoli, Madrid, Barajas e anche quello di Barcellona. Su questo, dicevo, si concentrano i 100 secondi Radio 24 Sole 24 Ore, oggi a firma di Alessandro Platerotti. Ricordo che sono trasmessi anche su RDS. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Platerotti. Uno dei termini più diffusi, gettonati e utilizzati sui giornali in questo periodo è sharing economy, ovvero l'economia della condivisione. Stiamo parlando di Uber o di tutti quei servizi in cui Car2Go e le varie sigle con cui in Italia sono conosciute quelle società che permettono di condividere un'automobile previo abbonamento e l'app scaricata sul telefonino. Beh, le tensioni che abbiamo visto in Italia sono niente di fronte a quello che sta accadendo in altre parti del mondo. Parliamo ad esempio della Spagna, dove da più di una settimana vengono prese d'attacco con veri e propri incendi, bruciare 6 attentati nei confronti delle automobili, non solo di Uber ma anche di Cabify, un nuovo servizio di car sharing inaugurato in Spagna grazie ai finanziamenti, indovinate di chi? Di Telefonica, la compagnia telefonica che anni fa era alleata e socia di Telecom Italia. La questione dei taxi, delle rivolte contro Uber o contro Cabify o contro tutte le altre sigle che le stanno esplodendo in Europa, non è soltanto la difesa di vecchie rendite di posizione che le liberalizzazioni non riescono a spazzare via, ma è qualcosa di più, è la confusione e l'incertezza che continua a regnare un po' ovunque in tutto il mondo, su quali devono essere le regole del gioco in un mercato che sta passando dalle vecchie regole dell'economia a quelle nuove, dove la proprietà è quasi un furto. Detto questo, sicuramente della questione devono occuparsi i legislatori europei, se non altro, se l'Europa è sempre in grado, per dare un indirizzo univoco in Europa su come onorare la vecchia economia senza per questo penalizzare lo sviluppo della nuova. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Stiamo con la Banca d'Italia. Vedo già dei messaggi sulla disoccupazione. Lo so anch'io che in Germania è il 5%, ma in Germania è tutto meglio sul fronte dell'economia. Ma si può veramente essere così tafazzisti? Alcuni ascoltatori sembrano come il marito cornuto che, per fare un dispetto alla moglie, compie, diciamo, un atto di evirazione. Ma perché bisogna essere arrabbiati se i dati sulla disoccupazione e sull'occupazione vanno bene? Poi vedremo se si consolidano. Vanno bene e gli occupati sono a livello più alto da 8 anni e la disoccupazione è a livello più basso dal novembre 2012, fermo restando che è ancora sopra l'11%. Boh, sembra che qualcuno giochi al tanto peggio, tanto meglio. Ma andiamo avanti. Visco, governatore della Banca d'Italia, serve ancora uno sforzo eccezionale per superare la crisi e poi affinché si realizzi una piena convergenza dell'inflazione verso l'obiettivo della Banca Centrale, serve ancora un grado elevato del accollamento monetario. Traduco, ha detto Visco, se vogliamo che l'inflazione vada verso il 2%, occorre che la politica monetaria tassi zero e con l'acquisto di titoli di Stato e l'iniezione di denaro della BCE continui per un altro periodo. Anche perché, appunto, come dicevo, Visco parla di sforzo eccezionale per superare la crisi. Grandi cambiamenti commerciali e finanziari, tecnologici e demografici hanno trasformato lo scenario economico mondiale. L'Italia ha risposto con fatica e questo spiega le difficoltà incentrate nel dare vigore a una ripresa che pure si sta consolidando. L'esigenza di superare la crisi ha sollecita ancora uno sforzo eccezionale. Non minore è l'impegno necessario per ritrovare un sentiero di crescita stabile ed elevata, per risolvere la questione del lavoro così difficile da creare, mantenere, trasformare, questione centrale dei nostri giorni, non solo sul piano dell'economia. La principale lezione della crisi è che gli squilibri vanno corretti tempestivamente, altrimenti prima o poi si pagano. Sul terreno delle riforme, su quello della finanza pubblica, per le banche servono altri passi in avanti, non retromarce. L'adeguamento strutturale dell'economia richiede di continuare a rimuovere i vincoli all'attività d'impresa, incoraggiare la concorrenza, stimolare l'innovazione. No, mi sento sospirare perché alcuni ascoltatori, i dati dell'Istat sono farlocchi, sono taroccati, vabbè. Diciamo così, e poi vado avanti con Visco. I dati dell'Istat ad alcuni ascoltatori vanno bene solo se sono negativi e se dicono che tutto va male. Se per caso dicono che c'è un miglioramento nell'occupazione e nella disoccupazione, sono taroccati. Avesse detto che la disoccupazione è esplosa al 30, scommetto che gli stessi ascoltatori avrebbero detto: oh, ecco, vedi che l'Istat ha ragione, allora la piantiamo. E l'Istat è sempre l'Istat, sia quando dà dati brutti che quando dà dati in leggero miglioramento, fermo restando che c'è una disoccupazione ancora troppo elevata. E dai, tutti che sanno tutto, tutti che contestano l'Istat, datemi voi i dati, quelli corretti, vediamo da dove arrivano, da quale fake news arrivano, da quale sito arrivano, da quale guru arrivano. Va bene, professor Marco Nado, buonasera. Buonasera. No, mi scusi, buonasera. Ma devo ogni tanto dialogare perché no, sembra quasi che se ogni tanto, quando c'è qualche dato positivo, sembra quasi che qualcuno resti deluso. Vabbè. Lei è ex commissario Consobe, insegna economia di intermediari finanziari alla Bocconi di Milano, nonché editorialista del Sole 24 Ore. Vorrei far ascoltare, lei l'ha già ascoltato oggi, ma un altro passaggio del governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, sul fronte debito pubblico e non performing loan, sofferenze bancarie, perché da lì poi vorrei partire, perché un conto è dire che ci rendono vulnerabili, un conto è capire come si fa a trovare una soluzione per le sofferenze bancarie, a maggior ragione quando l'Europa ci ha fatto questo scherzetto di chiedere 1 miliardo ai privati sulle due banche venete. Visco su debito pubblico e sofferenze. Le conseguenze per l'Italia della doppia recessione si sono manifestate in tutta evidenza su due variabili profondamente diverse per natura e per entità, che sono spesso indicate per la progressione del loro aumento e per i livelli raggiunti come i problemi principali del Paese, il debito pubblico e i crediti cosiddetti deteriorati delle banche. Si tratta di due fattori di debolezza che riducono i margini di manovra dello Stato e degli intermediari finanziari. Entrambi rendono vulnerabile l'economia italiana alle turbolenze sui mercati e possono amplificare gli effetti delle fluttuazioni cicliche. Per valutare correttamente questi fenomeni e individuare le strategie più adeguate a gestirne le conseguenze, va però certamente riconosciuto il loro stretto legame con le difficoltà dell'intera economia. Su entrambi i fronti bisogna continuare ad agire con determinazione e chiarezza di intenti nella prospettiva di mantenere e rafforzare la fiducia di chi risparmia e investe nel nostro Paese e nelle banche italiane. L'alto livello del debito costituisce un elemento di vulnerabilità e di freno per l'economia. Accresce i costi di finanziamento degli investimenti produttivi del settore privato, induce un più ampio ricorso a forme di tassazione distorsiva, con effetti negativi sulla capacità di produrre reddito, risparmiare e investire. Alimenta l'incertezza e anche per questa via scoraggia gli investimenti. Riduce i margini disponibili per le politiche di stabilizzazione macroeconomica. Allora, professor Nado, poi risponderò anche a tutti gli ascoltatori che contestano i dati Istat. C'è già qualcuno che scrive che i dati Istat sono taroccati perché si va verso elezioni. Ragazzi, però, cerchiamo di essere seri. In questo paese siamo abituati a tutto, ma i dati Istat vengono poi certificati da Eurostat. Sono dati che servono a qualunque livello come dato statistico per poi anche l'Europa. Per cui, se vogliamo dire che noi stiamo taroccando i dati Istat perché ci sono le elezioni, e vuol dire farlo anche sul PIL, sul deficit, sull'inflazione, su tutto, e vuol dire che noi andiamo a fornire all'Europa e Eurostat dati taroccati. Se pensate che sia così, va bene, allora che senso ha parlare di dati a quel punto? Professor Nado, quanto alta però è torno al tema di Visco, la distanza tra quello che Visco dice, vabbè, è il fatto che qua sulle sofferenze bancarie non solo non si stia trovando una soluzione finale, ma si sta anche facendo un passo indietro. Penso alle banche venete e alla richiesta da parte di Bruxelles di mettere 1 miliardo dai soldi privati se deve partire l'aiuto pubblico. Io credo che sia questo il tema fondamentale di queste relazioni, che erano importanti anche perché sono le ultime. Questa relazione è l'ultima di questo mandato di Visco, quindi è stata un po' l'occasione per fare un bilancio complessivo sugli effetti della crisi per il nostro paese. In questo senso la cosa che più colpisce di questa relazione è appunto la distanza quasi siderale fra il rigore anche analitico dell'analisi delle proposte e il chiacchiericcio della politica italiana, oppure i comportamenti ondivaghi delle autorità della politica e delle autorità di Bruxelles europee. L'ultimo diciamo il caso è quello che lei sta citando delle banche venete, e su cui non a caso il governatore ha taciuto, forse per un giusto imbarazzo istituzionale. Però delle sofferenze, Visco ha detto chiaro e tondo: la ripresa c'è, l'Italia però sta crescendo meno degli altri, e la ripresa da sola non risolve questi due fardelli enormi che l'Italia ha, che sono il debito pubblico e le sofferenze bancarie, e sull'uno e sull'altro è la politica che deve dare una risposta, sia l'Europa che Roma. Allora, dopo il meteo e la pubblicità ascolteremo altri passaggi di Visco riguardo appunto alle sofferenze bancarie, alla attività di vigilanza della Banca d'Italia e anche l'eventuale uscita dall'euro. Illusione pensare che l'uscita dall'euro sia la soluzione. Mi dica solo una cosa, anzi io vorrei far ascoltare questo passaggio di Visco prima del meteo, in cui Visco dice: da noi massime sanzioni segnalati i reati a magistratura. Il riferimento è all'ispezione della Banca d'Italia e gli scandali bancari di questi anni. La crisi ha colpito soprattutto quelle banche che, anche a causa di carenze negli assetti di governo societario e di comportamenti imprudenti, a volte illeciti nell'erogazione del credito, l'avevano affrontata già deboli. È il caso delle quattro banche poste in risoluzione alla fine del 2015 e dei gruppi per i quali sono attualmente in corso interventi di rafforzamento patrimoniale. A fronte di gravi mancanze abbiamo irrogato sanzioni nella misura massima prevista dall'ordinamento. Nei casi di malagestia le ipotesi di reato sono state segnalate all'autorità giudiziaria con tempestività, avviando la collaborazione con la magistratura già nel corso degli accertamenti ispettivi. Una collaborazione importante ed intensa. In maniera molto secca, professor Nado, lei si aspettava un po' più di autocritica da parte di Visco? Cioè, qui il problema è che quando parla la Consob, abbiamo sentito la relazione di Vegas, parla di altro. La Banca d'Italia, insomma, nessuno ha una responsabilità nel non aver visto cosa stava capitando a Veneto Banca, a Popolare di Vicenza, alle quattro banche, Etruria, Chieti, Ferrara, Marche, Cassa dei Risparmi di Genova, di cui ci occuperemo oggi, non dico Monte dei Paschi di Siena, che quella già ce ne siamo occupati, ma insomma, tutto bene così? Cioè, ogni volta la risposta è: noi gli ispezioni le abbiamo mandate. Naturalmente il problema è molto delicato. C'è stato anche un pezzo che Visco ha detto a braccio al di fuori del testo scritto della relazione, dicendo: siamo stati criticati anche aspramente, ma siamo convinti di aver fatto fino in fondo il nostro dovere. Io credo che un punto delicato sia quello, appunto, delle segnalazioni alla magistratura che sono state fatte in via in modo tempestivo. Lo dice Visco, ma diciamo le cronache che abbiamo dicono che è stato proprio così. La risposta della giustizia italiana, ancora una volta, è stata invece con tempi molto, molto più lenti, e in alcuni casi siamo ancora alle fasi istruttorie. Voglio dire, questo dovrebbe essere uno dei temi più caldi di questa tanto invocata commissione parlamentare di cui tutti parlano, ma che ancora non ha cominciato ad operare. Sì, io trovo sempre molto autoassolutori sia la Consob che la Banca d'Italia, e magari chiedere anche interventi più forti per far luce. Vabbè, meglio che stia zitto oggi. La chiusura di borsa meno 0,40%, meteo, pubblicità, poi ascoltiamo Visco anche appunto sulle sofferenze bancarie, cosa sarebbe, che danno creerebbe al sistema bancario italiano svenderle e l'uscita dall'euro. Ha ragione l'ascoltatore che dice, tra l'altro, questa massa di sofferenze è uno degli elementi per cui l'Italia cresce meno di altri paesi, certo, perché le banche, avendo da gestire tutte queste sofferenze, prestano ancora meno soldi di quanti avrebbero fatto alle imprese. Un altro ascoltatore mi dice: tanto lei non leggerà il mio messaggio, perché non dice che dentro quei dati sulla disoccupazione ci sono anche quelli che lavorano un'ora con i voucher. Poi ne parliamo, ho il suo messaggio, l'ho letto. Andiamo sul meteo. Focus Economia. Alla fine dello scorso anno, i crediti deteriorati delle banche italiane iscritti nei bilanci al netto delle rettifiche di valore erano pari a 173 miliardi, il 9,4% dei prestiti complessivi. L'ammontare di circa 350 miliardi, spesso citato sulla stampa, si riferisce al valore nominale delle esposizioni e non tiene conto delle perdite già contabilizzate nei bilanci. Esso non è pertanto indicativo dell'effettivo rischio che grava sulle banche. Dei 173 miliardi di crediti deteriorati netti, 81 riguardano crediti in sofferenza, a fronte dei quali le banche detengono garanzie reali per oltre 90 miliardi e personali per quasi 40. Vi sono poi 92 miliardi di altre esposizioni deteriorate, già svalutate per circa un terzo del valore nominale, Per una parte di queste, il ritorno alla regolarità dei pagamenti è certamente possibile, in una misura legata ai tempi e alla forza della ripresa. Una gestione attiva da parte delle banche è necessaria per ridurre significativamente la quota che si trasforma in sofferenze. Tre quarti delle sofferenze nette sono detenuti da banche le cui condizioni finanziarie non impongono di cederle immediatamente sul mercato. Quelle che fanno capo a intermediari che stanno attraversando situazioni di difficoltà e possono trovarsi nella necessità di disfarsene rapidamente ammontano a circa 20 miliardi. I valori ai quali i crediti in sofferenza sono iscritti nei bilanci sono in linea con i tassi di recupero effettivamente osservati negli ultimi 10 anni. Ma anche se fossero venduti ai prezzi molto bassi offerti da pochi grandi operatori specializzati oggi presenti sul mercato, che ricercano tassi di profitto molto elevati, l'ammontare di rettifiche aggiuntive sarebbe contenuto nei 10 miliardi. Dunque, professor Onato, Visco cita le sofferenze per dire attenzione a come vengono vendute i fondi avvoltoi, aggiungo io, perché se vengono svendute ci sarà bisogno di 10 miliardi in più di capitale complessivamente nel sistema. Però, mi scusi, la soluzione qual è? Perché nel momento in cui abbiamo cercato di trovare altre soluzioni ci ha mezzo bloccato l'Europa, quindi? Ma guardi, su questo sono state avanzate proposte dall'EBA e dalla stessa BCE per avere soluzioni possibilmente nell'ambito di uno schema comune europeo che possono consentire alle banche di vendere a prezzi che siano più allineati diciamo a quelli economici effettivi, perché chiamiamo fondi avvoltoio o comunque si tratta di pochi operatori che fanno il mercato o fanno il bene o il cattivo tempo, e cioè sfruttano una rendita di posizione. E quindi occorre, lo insegna la teoria economica elementare, quando c'è una situazione in cui il mercato da solo non ce la fa, occorre un intervento pubblico. Per rimuovere le difficoltà. Ripeto, la ricerca economica e l'EBA e la BCE hanno indicato delle soluzioni operative. Adesso sta ai singoli paesi, ma soprattutto all'Europa, di dare una risposta. E ripeto, ancora una volta, il tono generale, il messaggio generale di queste considerazioni finali. Sì, devo dire, sto leggendo anche mentre lei parlava molti dei messaggi, devo dire che molti fanno notare come l'autocritica o la critica a quello che non ha funzionato. Vede, professor Onato, cioè non si può far passare tutto quello che è successo in Italia in questi anni come hanno sbagliato i banchieri, perché le autorità di vigilanza dove sono? Cioè non abbiamo avuto un caso solo, inizialmente pensavamo fosse solo Monte dei Paschi con quelle operazioni Santorini, Alexandria, fatte per coprire quell'operazione allucinante su cui secondo me ancora non si è scritta neanche un pezzo della verità, cioè l'acquisizione di Anton Veneta da Santander pagata a cifre folli, e per coprire queste perdite, operazioni spericolate con la mazzetta del 5%, questa è l'accusa dei PM, vedremo, andranno a processo fra poco Mussari, Baldassare e gli altri. Il problema è che poi abbiamo scoperto che c'erano le quattro banche, Etruria e quant'altro, poi c'era la Popolare di Vicenza, Veneto Banca, poi è venuta fuori anche la Cassa di Genova. Insomma, come si fa, professore, a dire, insomma, noi abbiamo fatto le nostre ispezioni, chiedo. Ripeto, questo è uno dei temi fondamentali del paese, e occorrono dei momenti di accertamento che non possono essere lasciati soltanto alla magistratura. La magistratura ha degli altri compiti, e io sono fondamentalmente convinto che sia l'occasione, la commissione d'inchiesta sia un dovere istituzionale nei confronti del pubblico, altrimenti rimaniamo in una situazione in cui è più facile entrare nei luoghi comuni dove erano i poliziotti quando i ladri agivano, che trovare delle risposte precise come la gravità della situazione impone. Sì, sono d'accordo e speriamo che la commissione venga fatta, perché tra l'altro lo dico perché, visto che un membro del governo è stato più volte chiamato in causa per vicenda di Trulli, mi riferisco al sottosegretario allora ministro Boschi, quantomeno la commissione bisogna farla partire per levare qualunque sospetto e dubbio, e facciamo una commissione per capire non solo che cosa è successo in queste banche, perché questo l'abbiamo capito, ahimè, casi diversi, prestiti dati in maniera assurda, azioni nel caso della Vicenza e Veneto Banca collocate non sul listino a prezzi astronomici che poi non si potevano rivendere, addirittura mutui dati per comprare azioni, di tutto abbiamo visto. Però la commissione deve investigare anche su che cosa non ha funzionato nei meccanismi di vigilanza, mi dispiace, è inutile dire solo hanno rubato o sbagliato i banchieri, e no, vogliamo anche capire perché nessuno se n'è accorto prima, con tutte quelle così intrecci che abbiamo raccontato anche nella Popolare di Vicenza, di ex ispettori che venivano assunti e figli di procuratori, insomma ne abbiamo dette e torneremo a dirle. Invece, nel ringraziare il professor Marco Nado, vorrei far sentire l'ultimo passaggio di Visco, quello sull'euro. Ha detto Visco, per quello che ci riguarda, è un'illusione pensare che l'uscita dall'euro sia la soluzione. È un'illusione pensare che la soluzione ai problemi economici nazionali possa essere più facile fuori dall'Unione Economica e Monetaria. L'uscita dall'euro, di cui spesso si parla senza cognizione di causa, non servirebbe a curare i mali strutturali della nostra economia. Di certo non potrebbe contenere la spesa per interessi, meno che mai abbattere magicamente il debito accumulato. Al contrario, essa determinerebbe rischi gravi di instabilità. La competitività dell'Italia non soffre per un cambio sopravvalutato. Le partite correnti della bilancia dei pagamenti sono in avanzo. È stato difeso il potere d'acquisto. Le regole europee di finanza pubblica contengono elementi di flessibilità da utilizzare prestando sempre attenzione alle dimensioni e al rinnovo del debito. Andiamo sul traffico, poi la borsa, 349-238-6666 per sms e whatsapp. Focus Economia. Sto leggendo degli ascoltatori che a cui non stanno però bene tutto sto accanimento sui dati Istat, perché sono un po' positivi. Adesso andremo a scorporare sui voucher, non si preoccupi, le darò anche qual è il numero di voucher che vengono contabilizzati, stiamo parlando di qualche migliaio, ok, rispetto al 2016, ma non c'è problema, dico solo che c'è gente che passa io non so che lavoro facciate, ma passa il tempo a mandare insulti tutto il tempo, non so. Divertitevi. Allora, invece sulle l'auto a soluzione di Visco, io vorrei far sentire un altro passaggio, perché ripeto, qualcuno mi sta scrivendo lei è un illuso se si aspettava autocritica da parte di Visco. Sì, sarò illuso come mi ero illuso anche nel caso di Vegas, ma insomma Visco dice attenzione, sono un numero limitato i casi critici emersi dall'ispezione della Banca d'Italia sulle piccole banche e le BCC per le 101 banche che vigiliamo direttamente. E i casi di mala gestione delle banche sono indipendenti da noi, da chi sta al governo o da chi sta in Banca d'Italia. L'azione di controllo sulle banche che vigiliamo direttamente è continua. Nel 2016 abbiamo condotto 95 ispezioni su banche soggette alla nostra vigilanza diretta, in linea con la media degli anni precedenti. Nella maggioranza dei casi le verifiche hanno riguardato l'intero spettro di attività degli intermediari. Per le 101 banche, diverse da quelle del credito cooperativo, su cui vigiliamo direttamente, nello scorso anno il processo di revisione prudenziale si è concluso con valutazioni positive nel 60% dei casi. Gli intermediari che hanno ricevuto valutazioni di attenzione, il 35%, sono sottoposti a controlli e interventi più intensi e stringenti. Le restanti situazioni, valutate come critiche, fanno riferimento a banche di dimensione contenuta per le quali sono in corso o in via di attuazione riorganizzazioni aziendali e interventi di ricapitalizzazione. Pochi casi, ma ancora peggio, se posso permettermi, con il massimo rispetto per la Banca d'Italia, un altro passaggio in cui dice: i casi di cattiva gestione delle banche si ripetono con regolarità, non c'entriamo né noi, diciamo, né il governo. La Banca d'Italia in questi anni è stata criticata, a volte anche con toni piuttosto aspri, spesso con imprecisioni anche gravi. È stata accusata di non aver capito quello che stava accadendo in alcune banche o di essere intervenuta troppo tardi. Non sta a me giudicare, posso solo assicurare che l'impegno del personale della Banca d'Italia e del direttorio è stato sempre massimo. Voglio però ricordare alcune cose che da questa crisi abbiamo imparato. La crisi bancaria purtroppo non sono una peculiarità dei nostri tempi e, come dimostra la storia, non è sempre possibile prevenirle. I casi di cattiva gestione, se non di vero e proprio malaffare, si ripetono purtroppo con una certa regolarità, indipendentemente da chi sta al governo o guida la Banca d'Italia. Occorrono strumenti per minimizzarne gli effetti. E questi effetti possono essere particolarmente gravi, soprattutto dopo una doppia recessione, quando l'andamento dell'economia aggrava gli errori strategici e le gestioni non attente o disinvolte, come è accaduto nei casi che abbiamo visto in questi anni. L'educazione finanziaria è un processo di lunga lena. Una discontinuità come quella connessa con l'introduzione del burden sharing prima e del bail-in poi ha chiaramente mostrato quanto sia importante investirvi. Cioè adesso io capisco tutto, ma va bene l'educazione finanziaria, che i risparmiatori spesso sono sprovveduti, che devono capire quanto rischioso è uno strumento, anche se in molti casi venivano venduti gli sportelli, governatore Visco, dalle banche stesse, veniva detto non ti preoccupare, l'azione della Popolare di Vicenza o di Veneto Banca la puoi rivendere quanto vuoi, non veniva chiarita l'obbligazione subordinata per cosa che rischi avesse. Però anche una volta ammesso che ci vuole più educazione finanziaria, che delle volte i risparmiatori sono troppo leggeri nelle scelte, ma le banche non sono saltate perché i risparmiatori hanno sbagliato a comprare gli strumenti. Ci sono state malversazioni che le ispezioni della Banca Italia non hanno visto delle volte, anche perché faccio notare che si arriva a stringere, diciamo, il cappio su Popolare di Vicenza e Veneto Banca grazie all'ispezione della Banca Centrale Europea, e non si può sempre dire adesso ma ancora un po' veniva fuori che la colpa è dei risparmiatori che hanno comprato quegli strumenti. Adesso mi calmo, vado sul GR24 e poi parliamo di borsa, dei dati tanto contestati da alcuni sulla disoccupazione, che però sono positivi, dati Istat, dopo anni e anni i dati sono negativi, e commentiamo anche l'ILVA. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni. Non c'è bisogno che faccia lo stacco vocale io, è ripartito anche sto computer. E invece vorrei concludere l'approfondimento con Eleonora Micheli sulla borsa. Tra l'altro vedo una notizia di agenzia adesso, sta calando pesantemente il petrolio in New York, è meno 4% quasi a 47,8 dollari, in discesa anche il Brent. Tornando alla borsa di casa nostra, invece, parlavamo prima, Eleonora, di Mediaset. Tra i titoli invece in positivo oggi di nuovo Italgas. Eh sì, Italgas, ricordiamo che ieri aveva guadagnato oltre il 5%, oggi ha fatto un altro più 2%, è stato presentato alla comunità finanziaria il piano industriale, che evidentemente è piaciuto, prevede 5 miliardi di investimenti entro il 2023. Ancora tra i titoli ricordati più 1,40%, Atlantia pure, Generali più 1,20%, male oggi di nuovo le banche, noi ci troviamo Mediaset, ma insomma UbiBanca perde il 3,30%, Banco BPM il 2,70%, Bipper il 2,50%, Mediobanca il 2,40%. Unicredit l'1,80%. Eh sì, del resto il governatore di Banca d'Italia Ignazio Visco, durante la relazione annuale, ha detto che saranno 20 miliardi di sofferenze che alcune banche in difficoltà si troveranno costrette a cedere in tempi abbastanza rapidi, provocando tra l'altro ulteriori rettifiche dell'ordine di 10 miliardi. Quindi ancora una volta si torna a parlare di sofferenze, cosa che ovviamente non piace al mercato. I titoli sono andati quasi tutti giù, tranne Intesa che era positiva per gran parte della seduta, poi alla fine ha chiuso con un lieve calo pari allo 0,16%. E a sospingere in alto, diciamo, i titoli è stato ancora una volta un report positivo emerso ieri di JP Morgan, che puntava l'indice sul fatto che la banca ha più visibilità sul monte dividendi che dovrebbe essere generoso da qui ai prossimi anni e garantito dal cash flow della banca, cioè dall'attività della banca stessa e non da vendite di asset che dovrebbe effettuare l'istituto. E in più, diciamo, i titoli non hanno risentito invece della notizia che Generali ha ceduto la quota pari a circa il 3%. Sì, che è arrivata ieri a mercati chiusi, sì. quella che aveva comprato però in chiave antiscalata. Esatto, comunque non ha provocato uno scivolone delle azioni, anzi, ripeto, fino a pochi minuti prima della chiusura della borsa erano in terreno positivo. Vorrei chiudere sul cassa di risparmio di Genova, perché migliori e peggiori li abbiamo già dati. Insomma, qui la calza che sfiducia l'amministratore delegato crea un problema mica da ridere nella governance della banca. Il titolo perde 6,5%. Eh sì, perché tra l'altro ieri ci attendevamo tutte notizie in verità sull'aumento di capitale, sull'entità dell'aumento di capitale tra i 450 e i 600 milioni di euro. Invece, come un fulmine a ciel sereno, è arrivata una nuova bufera per l'istituto, ossia che il primo azionista con il 17,5% circa del capitale ha sfiduciato l'amministratore delegato, puntando l'indice sull'incertezza dell'importo dell'aumento di capitale, che per adesso non è stata dettagliata, sulla vaghezza eccessiva del ruolo degli advisor e poi inoltre anche sulla mancanza di chiarezza sulle sofferenze che la banca si troverà costretta a scorporare o comunque a cedere. Insomma, a questo punto il consiglio di amministrazione di Banca Carige si riunisce di nuovo il 9 giugno, ma per discutere sulla mozione di sfiducia presentata da Malacalza. Quindi si rinviano di nuovo i tempi per la ricapitalizzazione della banca e questo ovviamente non piace, mette in allarme anche gli investitori che evidentemente hanno preferito quest'oggi vendere le azioni. Grazie, Eleonora Michele, Radio Corriere sulle 24 ore. Noi andiamo invece dalla borsa all'Ilva. Dunque, se ne è già occupato prima di noi Oscar Giannino, la vicenda la conoscete, l'accordata che, insomma, a partire dal giudizio dei tre commissari si è aggiudicata, erano due, l'ILVA è quella del gruppo indiano ArcelorMittal assieme agli italiani di Marcegaglia e Intesa San Paolo. L'altra accordata si chiama Acciai Italia, vedeva gli indiani di Jindal, la Cassa Depositi e Prestiti, Del Vecchio e Arvedi. La novità è che i sindacati hanno dichiarato 4 ore di sciopero per domani. La novità, dico, sono gli esuberi, perché appaiono, quando arriva il dettaglio del piano, viene illustrato ieri ai sindacati, 4.800 esuberi e poi progressivo però aumento del personale nel corso degli anni. Tra l'altro, al 2024 il piano di, lo dicono fonti di Jindal, prevederebbe 10.800 addetti, ai quali si aggiungerebbero 2.000 persone. Ora, fermo restando che l'altro piano, da quello che si è capito, prevedeva esuberi ancora più alti, 6.400, la sorpresa, almeno così è sembrata a tutti, ha colto soprattutto i sindacati, che non si aspettavano un piano di esuberi. E allora vorrei capire con il nostro Domenico Palmiotti, che da Taranto per il Sole 24 Ore segue da sempre anche la vicenda Ilva. Buonasera Domenico. Buonasera Sebastiano. Veramente sono arrivati come un fulmine a ciel sereno gli esuberi, perché adesso sto leggendo una nota di Jindal che dice: il dato sugli esuberi è temporaneo ed è legato alla produzione a carbone e discende dall'indicazione del Ministero dell'Ambiente nel piano ambientale, che blocca 6 milioni di tonnellate la produzione. Nel nostro piano fin da subito partirebbero i lavori per l'impianto elettrico che consente la decarbonizzazione e per il ripristino dell'altoforno 5. Tutti i lavori che hanno un fabbisogno di manodopera di circa 2.000 persone, Al 2024 il nostro piano prevederebbe comunque 10.800 addetti più 2.000 persone dell'indotto che continuerebbero a lavorare nella manutenzione di DRI e di AFO 5. Sì, gli occupati attualmente però sono 14.000, quindi di cui 4.100 sono già in cassa integrazione, quindi comunque il piano 2024 prevede un numero più basso di dipendenti. Ma ripeto la domanda, è arrivato come un fulmine a ciel sereno? Gli esuberi erano previsti, si sapeva che la riorganizzazione dell'ILVA avrebbe comportato meno forza lavoro sia a Taranto che negli altri siti, però esuberi con queste cifre, con questi impatti probabilmente non se li aspettava nessuno, perché per il prossimo anno ArcelorMittal prefigura appunto esuberi pari a 4.800 persone, Jindal per 6.400 persone. Poi i numeri cambiano, però voglio dire, gli impatti finali nel 2024 sono comunque pesanti. È vero che Acciaio Italia, come dicevi tu, a fine 2024 avrà 10.000 persone, quindi un numero di persone più alto rispetto a quelle che occuperà ArcelorMittal, che invece si assesterà sempre nel 2024 intorno agli 8.400. Però bisogna anche evidenziare, questo lo ha messo in luce ieri il sindacato, che il costo del lavoro è diverso, perché ArcelorMittal prefigura un costo del lavoro che parte da 50.000 euro lordi come media annuale a persona e si attesta a 52.000, invece ArcelorMittal nell'altro Jindal anzi parte da 42.000 e si attesta a 45.000, quindi un costo del lavoro più basso, e questo diciamo ha preoccupato molto i sindacati. Domani a Taranto ci sono le prime 4 ore di sciopero, anche questa era una cosa che era nell'aria già da ieri sera e che stamattina il consiglio di fabbrica e l'RSU hanno formalizzato. Sarà una protesta che riguarderà tutta la fabbrica, quindi dipendenti diretti, dipendenti di quelle delle aziende metalmeccaniche, dei servizi, delle aziende edili, e potrebbe essere solo l'inizio di una serie di proteste se la situazione non dovesse cambiare. Domani mattina al MISE i sindacati reincontrano il ministro Calenda, dal governo i sindacati chiedono risposte soprattutto per quanto riguarda risorse, ammortizzatori sociali, possibilità che gli esuberi siano ricollocati nella società dell'amministrazione straordinaria che dovrà gestire le bonifiche, chiedono insomma risposte su quel percorso di accompagnamento che il governo in qualche modo ha già prefigurato e che dovrebbe rendere meno impattante il riassetto dell'ILVA. Poi la trattativa sui numeri, sugli aspetti produttivi, sugli investimenti dovrà essere fatta con l'azienda non appena il decreto di aggiudicazione sarà firmato, il che potrebbe anche avvenire nelle prossime ore, perché da quello che si apprende dal MISE domani con i sindacati ci sarà un'ulteriore informativa, saranno precisati degli elementi di dettaglio, ma non è che si apre una trattativa sugli ammortizzatori sociali, perché il MISE afferma di aver già dato una serie di risposte, di aver già approntato una serie di strumenti, quindi saranno precisati, diciamo, sarà precisato il perimetro dell'intervento pubblico che accompagnerà la ristrutturazione, poi il sindacato dovrà negoziare e trattare con ArcelorMittal e Marcegaglia i contenuti dell'intesa che dovranno rendere operativa la nuova società. Sì. E infatti fonti del Ministero dello Sviluppo Economico dicono che nessun lavoratore dell'ILVA sarà licenziato e o lasciato privo di protezione. Tutti i lavoratori non assunti dall'acquirente rimarranno in capo all'amministrazione straordinaria per la durata del programma e potranno essere impiegati nelle attività di decontaminazione eseguite dalla procedura, e poi dicono comunque fonti del Ministero che comunque l'offerta presentata da Invesco è il numero di tagli previsti nell'offerta presentata da Invesco sono suscettibili di miglioramento per espressa dichiarazione di disponibilità dell'offerente. Speriamo, vedremo che cosa uscirà ancora dal Ministero allo sviluppo economico. Grazie intanto a Domenico Palmiotti, andiamo sul traffico e poi dati sul lavoro, così facciamo felice chi fa finta di lavorare e in realtà passa l'intera giornata, altro che sale ai mercati, ma cosa dice, a scrivere messaggi di insulti. Invece noi raccontiamo i dati dell'Istat e vediamo anche qual è la quota di voucher, perché sulle indicazioni statistiche europee, quindi il metodo di calcolo europeo, per essere dichiarato occupato basta statisticamente lavorare un'ora a settimana. Lo dico subito così andiamo poi nella notizia. Nel 2016 le persone occupate, ma occupate che lavoravano un'ora a settimana, quindi anche col voucher, anche senza voucher, erano in tutto 9.000 persone. Adesso traffico e poi vediamo i dati diffusi oggi. Focus Economia. Yeah. Dunque, i dati che tanto hanno fatto arrabbiare alcuni ascoltatori, non capisco veramente perché, forse delusi, perché speravano nel tanto peggio, tanto meglio. Dati Istat, come ogni mese, su disoccupazione e occupazione. I disoccupati sono tutti quelli che non lavorano, fatto 100 chi sta cercando un lavoro, gli occupati invece sono tutti quelli che lavorano, fatto 100 tutti quelli che potrebbero lavorare, quindi nei disoccupati non vengono considerati, come spesso spieghiamo, quelli che hanno rinunciato a cercare lavoro o non vogliono cercare lavoro per motivi e per scelte private o vi hanno banalmente rinunciato. Allora, la disoccupazione scende all'11,1% ad aprile contro l'11,7% dell'aprile 2016, quindi il dato è buono, anche se è una disoccupazione alta, è ancora sopra il 10%. L'occupazione sale ad aprile al massimo da 8 anni a questa parte, ossia 22.988.000 persone. Sale soprattutto il tasso di occupazione della platea, diciamo, meno giovane, tant'è che il tasso di disoccupazione invece resta stabile nei giovani, ahimè, al 34%. Professor Carlo Della Ringa, buonasera innanzitutto. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Dunque, il commento, ho visto il commento di Susanna Camusso, ha detto insomma quanto ci vorrà con questi dati per tornare ai livelli pre-crisi, giusto, ma uno potrebbe ribattere, ho capito, meglio un dato un po' in miglioramento che un dato un po' in peggioramento. Barbagallo li ritiene dati ancora insufficienti, e va bene, anche se io aggiungo insufficienti, ma almeno una volta tanto positivi, visto che non è che tutti questi dati positivi li abbiamo visti sull'occupazione e disoccupazione. Alcuni ascoltatori commentano, sono dati taroccati e truccati, respingo al mittente la critica, però quanto pesano i voucher su questo? Perché ricordavo prima del traffico che per calcoli europei se tu lavori un'ora a settimana vieni già considerato una persona occupata. Professore? Sì, certamente, anche due ore, tre ore. No, ma adesso parliamo di un aumento che c'è stato da un mese all'altro, 94.000 unità, i voucher sono stati aboliti, quindi l'aumento non può essere certamente dovuto a voucher. Se andiamo indietro di due o tre anni possiamo dire che certamente nella variazione dell'occupazione che c'è stata negli ultimi due anni qualcosa dei voucher nei dati c'è, quello che ha lavorato un'ora, due ore, tre ore, però non tutti quelle centinaia di migliaia di lavoratori che hanno lavorato con un voucher, perché mediamente questi lavoratori in un anno lavorano poche ore, quindi ci sono quelli che lavorano aprile, a maggio, a giugno, quindi vengono beccati in un mese, in una settimana, solo una percentuale minima, fanno parte dello stock un numero molto limitato di lavoratori. Sì, nel 2016 dai nostri calcoli risultavano 9.000 in tutto, per cui insomma... Sì, potrebbe essere anche qualcosa di più se aggiungiamo anche quelli che fanno più di un'ora, perché i voucher anche sono di due o tre ore. Certo. Quindi possiamo dire che nel giro di due o tre anni non c'è dubbio che i voucher abbiano fatto sì che lo stock complessivo aumentasse anche di un 20.000-25.000 unità. Però adesso con questi dati non c'entra nulla, noi stiamo osservando un aumento da un mese all'altro di 90.000 unità, quindi qui l'aumento dei voucher non c'entra nulla, anche perché i voucher sono stati aboliti, le imprese, le famiglie possono solo utilizzare quelli che hanno già acquistato, quindi siamo già in una fase regressiva, quindi mettere dentro i voucher per interpretare questi dati non ha senso. Diciamo. Senta professore, quanto potrà essere strutturale, nel senso che noi ci aspettavamo invece e ci aspettiamo un continuo calo dell'effetto decontribuzione e anche Jobs Act, quello del 2015, perché l'abbiamo detto più volte anche con lei, questa roba va a esaurirsi. Qualcuno mi dice, ma perché definire dati buoni? Io non ho detto buoni, ho detto migliorati, non ho detto buoni. Buoni saranno quando avremo la disoccupazione ai livelli pre-crisi, intorno all'8-9% e da andamento analogo anche per l'occupazione. Migliorati sì, perché se passi dall'11,7 di disoccupazione all'11,1 un miglioramento ce l'hai, ragazzi, così come se arrivi al massimo dell'occupazione da 8 anni a questa parte. Che siano buoni, no, non ho mai detto, ho detto migliorati in questo senso. Però noi professore in realtà ci aspettiamo un rallentamento di tutti gli effetti ex legis, cioè decontribuzione Jobs Act, sul dati sull'occupazione. Sì, non c'è dubbio, anche se, dunque, due osservazioni. La prima è che certamente gli incentivi non ci sono più, quindi le assunzioni non sono più incentivate. Attenzione, però, quelli che sono stati assunti nel 2015-2016 con la decontribuzione, ce l'hanno ancora la decontribuzione, certo, assunti allora, non adesso, allora, smetterà la decontribuzione alla fine di quest'anno. E allora che lì certamente il punto di domanda ci può essere. Quando tutti questi giovani o meno giovani assunti con la decontribuzione, le imprese non hanno più la decontribuzione, se li terranno tutti o cominceranno a disfarsene, ma dobbiamo aspettare l'anno prossimo. Quest'anno certamente le assunzioni non sono più incentivate fiscalmente, quindi questi dati sono molto buoni proprio alla luce del fatto che la decontribuzione per le nuove assunzioni quest'anno non c'è più. Devo dire, come osservazione generale, che io sono stato molto sorpreso dalla bontà di questi dati. Certo, lo portiamo a casa perché è un ottimo dato che, fra l'altro, diciamo che dal punto di vista macroeconomico può interagire positivamente con il ciclo, perché più gente che lavora c'è più reddito disponibile per le famiglie e quindi anche più consumi. Non c'è dubbio che l'aumento dell'occupazione è positivo. C'è da dire che in corso, con questo forte aumento, non c'è mai stato un aumento così forte di quasi 100.000 unità in un mese. È vero. Ecco, su base annua siamo a 1,2 punti di aumento dell'occupazione, che è più del PIL. Quindi hai voglia di dire una crescita senza posti di lavoro? Qui c'è una crescita dei posti di lavoro senza crescita. No, è un assurdo, ma è un po'. No, ma la battuta ci sta tutta, cioè crescono più i posti di lavoro quando andiamo a guardare gli occupati di quanto non stia crescendo il PIL. Però io mi rendo conto che chiedere ai sindacati anche un commento di dire, beh, meno male che un po' sono cresciuti gli occupati e un po' sono calati i disoccupati, sia impossibile, perché tanto il bicchiere è sempre comunque mezzo vuoto, ed è un bicchiere ancora mezzo vuoto sui dati, lo dico per la 20ª volta. Non accetto però che lo scontento di chi resta deluso perché tutto non va a rotoli e verso l'apocalisse. Però vorrei capire che lavoro fanno quelli che sono così apocalittici e così contenti se i dati sono solo negativi e insultano per un'ora e mezza quando qualche dato è positivo. Grazie, professor Della Ringa. Noi invece ci risentiamo con tutti, con chi insulta ma sempre segue e con chi non insulta e spero che sempre segua, domani dalle 17 in poi. Intanto, da Sebastiano Barisoni, l'augurio di una buona serata a tutti. Radio 24, libera la voglia di fare.